Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Il suggello di Gorizia al percorso di riconciliazione tra Italia e Slovenia e la consegna del premio Patroni ai presidenti Mattarella e Pahor. L'ultimo saluto a Marco, morto a 18 anni dopo una caduta sugli sci. A Tolmezzo centinaia di persone per i funerali. Ospedale di San Daniele a fine marzo il via ai lavori per l'ampliamento del pronto soccorso dureranno 10 mesi. Disturbi alimentari, nasce in provincia di Udine il primo centro residenziale specializzato. Kader Abdullah, i libri di una vita e il futuro dell'Iran. A Pordenone la prima giornata di dedica con lo scrittore minacciato dagli Ayatollah. Sport, calcio, Udinese battuta in casa dal Verona. Basket, Trieste strapazzata a Trapani, subisce 131 punti. Pallanuoto, doppia delusione alla Bardata. Le 8.31, buona domenica, buona giornata da Giampaolo Mauro e Daniele Lettig. Cominciamo con uno sguardo al tempo, abbiamo cielo coperto e precipitazioni sparse sul Friuli Venezia Giulia. Queste sono le temperature registrate alle 7. A Trieste, a Pordenone 10 gradi, a Gorizia 9,5, a Udine 8,5. Nell'area montana, Tolmezzo 6, a Tarvisio e a Sappado 1,5, a Forni di Sopra 3,5, sul Piancavallo 1. In quota sullo Zoncolan -1, sull'Ussari -2, sulla costa Lignano 11, a Grado 10,5. Queste le previsioni. Al mattino precipitazioni diffuse, moderate o localmente abbondanti su pianura e costa, più deboli in montagna, con quota neve a 1.000-1.300 metri sulle Alpi, 1.300-1.600 metri sulle Prealpi e temporaneamente a quote più basse. Nel pomeriggio cielo nuvoloso, con maggiori schiarite sulla costa, ma sarà possibile ancora qualche rovescio o temporale sparso. Un percorso di riconciliazione riletto anche alla luce dei fatti di oggi attraverso il racconto di due coraggiosi uomini di Stato. E anche questa l'eredità del premio Patroni consegnato ieri a Gorizia al Presidente della Repubblica Mattarella e al Presidente emerito della Slovenia Pahor. Sentiamo. All'ex presidente Borut Pahor e a me è toccato in sorte felice di assistere a questo evento straordinario, la trasformazione di un confine tracciato per dividere in un luogo di incontro e condivisione. Con queste parole il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto il premio Sant'Ilario e Taziano assieme al capo dello Stato emerito della Slovenia per il loro concreto e costante sostegno nel percorso di avvicinamento delle comunità di Gorizia e di Nova Gorizia, recita la motivazione. Dobbiamo ai cittadini di queste terre il successo di questo percorso. Società mature, cresciute in democrazia, con efficaci anticorpi rispetto alle lusinghe sterili e pericolose dei nazionalismi che hanno recato tanti gravi danni. Gorizia e Nova Gorizia hanno coraggiosamente trasformato la prossimità geografica delle due identità in una opportunità, dando vita a un esempio inestimabile, non soltanto per i nostri due paesi, ma per l'intera Europa. Abbiamo fatto qualcosa di buono, ha detto l'ex presidente sloveno Pahor, rivolgendosi all'amico Sergio prima ancora che al collega capo di Stato Mattarella. Una riconciliazione controcorrente rispetto allo spirito del tempo. L'Europa unita si proponga una comunità coesa, capace di tracciare congiuntamente la rotta di uno sviluppo coraggioso. Sarà difficile, forse sarà molto difficile, ma non dobbiamo arrenderci e non dobbiamo cedere alla disperazione. Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. La cronaca. A Tolmezzo ieri i funerali di Marco degli Uomini, morto a 18 anni dopo una caduta sugli sci. Puntava a diventare maestro, a dargli l'ultimo saluto erano in tantissimi, tra amici, sportivi della montagna, colleghi dei genitori. Centinaia di persone. C'è tutta la famiglia del ghiaccio, della neve e della montagna a Tolmezzo a dare l'ultimo addio a Marco degli Uomini, il 18enne morto per le conseguenze di una caduta sugli sci sul monte Zoncolan. A stringersi attorno alla famiglia le comunità di Resia, dove vivono i nonni e dove Marco verrà sepolto, Pontebba, dove era diventato campione italiano junior di short track, ma anche Tolmezzo, dove vivono i genitori Cristina e Angelo. Roberto Vicentini, sindaco di Tolmezzo. Mi viene... È difficile anche parlare. Il segnale di una comunità scossa è qui, di chi non si dà ancora una ragione. C'è tutto il sistema dell'emergenza-urgenza, non solo i colleghi della mamma, di Suem e degli soccorsi di Pieve di Cadore. Il soccorso alpino, guide, maestri, scuole di sci di due regioni, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Amici e compagni di scuola, sulle magliette arancioni c'è Marco, Delle, come era chiamato, che curva sugli sci. Amava gli elicotteri e la velocità, hanno ricordato gli amici. La linea del traguardo, tagliata troppo in fretta. Fuori dalla chiesa volano in cielo 18 palloncini bianchi e uno rosso. Il rombo della sua moto per l'ultimo saluto. Tolmezzo, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Al via a fine mese i lavori nell'area del pronto soccorso dell'ospedale di San Daniele che consentiranno di ampliare e adeguare l'area dell'emergenza-urgenza. L'intervento avrà un costo complessivo di 1.800.000 euro. Ieri un sopralluogo del vicepresidente della regione Riccardi, al quale i responsabili e i tecnici dell'azienda sanitaria hanno illustrato anche i progetti previsti per il miglioramento di parte delle aree esterne all'ospedale. I lavori dovrebbero durare circa 10 mesi. In occasione della settimana mondiale di prevenzione del glaucoma, oggi a Gorizia gli specialisti dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti offriranno consulti informati alla cittadinanza. Il gazebo sarà presente in piazza Transalpina dalle 9.30 alle 12.30. E ieri la giornata dedicata alla consapevolezza sui disturbi alimentari. Da Udine è arrivato l'annuncio dell'apertura a Camino al Tagliamento del primo centro residenziale specializzato. Sentiamo il commento di Donatella Martini, presidente dell'associazione Fenice FVG, la cui attività è cominciata nel 2017, quando non esistevano neppure i centri diurni. Siamo reduci da anni e anni di pendolarismo sanitario in cui andavamo in tutto il nord Italia fino alla Sardegna siamo arrivati. Circa 1.000 le persone che ogni anno si rivolgono ai centri regionali. Al Cudica, che tratta i casi di adulti in ospedale a Udine, 300 i pazienti in carico, oltre 3.600 le prestazioni erogate nel 2024, in crescita del 15%, più di 10 a paziente tra colloqui psicologici, terapia di gruppo, visite psichiatriche e interventi di equipe. Alcune diagnosi già a partire dai 6-7 anni. Per questo, fondamentale l'attività di prevenzione nelle scuole che ha coinvolto 2.000 ragazzi. Ricordo che la regione Friuli Venezia Giulia è una delle poche, se non l'unica, che in Italia sostiene progetti di prevenzione sui disturbi del comportamento alimentare. Ed è una grande rivoluzione, nel senso che noi familiari siamo potuti entrare, grazie all'associazione, nell'azienda sanitaria, portare le nostre richieste, portare le nostre esigenze e progettare insieme ai curanti, ai centri di cura e all'azienda sanitaria delle azioni come ad esempio i trasporti, che sono state utilissime veramente in questi anni, hanno supportato un sacco di famiglie. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Alcuni eventi di oggi, ultima giornata a Trieste per Olio Capitale, la rassegna dedicata agli extravergini di qualità. Tra gli appuntamenti di oggi, i focus sull'olio DOP Sardegna, sugli oli calabresi e sulla peranzana pugliese. La chiusura del salone alle 19. Giornata finale anche per la 20ª edizione della rassegna Nel Giardino del Doge Manin, che a Villa Manin di Passariano propone, oltre all'abituale ampia mostra floreale di piante e arredi, presentazione di libri, visite guidate, mostre, laboratori per grandi e piccoli. 46esima edizione per la mostra ornitologica di Blessano. È iniziata già alle 6 di stamattina la tradizionale fiera dedicata agli uccelli locali ed esotici, con le premiazioni previste alle 11.30. Presente in fiera anche una grande varietà di animali da cortile e la mostra cinofila. La cultura a Pordenone si inaugura alle 10.30 in biblioteca comunale la mostra Eyewitness Iran, immagini del fotoreporter iraniano Manoucher Degati. Ci sono anche i ritratti di Kader Abdollah, l'autore protagonista di Dedica. Il festival è stato inaugurato ieri sera. A 70 anni, gli abbiamo chiesto, spera ancora di poter tornare in Iran? L'idea del ritorno a casa fa parte dell'essere umano, pensiamo ad Odisseo, ci dice. Anche se mi fosse concesso di tornare in Iran, però la casa dei genitori non c'è più e mia madre ha perso la memoria e non mi riconoscerebbe più. La mia vera casa quindi è la lingua dei classici della cultura persiana, Rumi, Le Mille e Una Notte, il Corano. Da anni è anche impegnato nella trasposizione di queste opere in neerlandese in modo da poterle condividere con i lettori occidentali, lettori ai quali nei suoi romanzi regala sempre prospettive che uniscono le due tradizioni che Kader Abdollah ha fatto sue. Alla domanda se l'Iran riuscirà a liberarsi dalla teocrazia degli Ayatollah, not by a revolution, Abdullah non crede che ciò accadrà con una rivoluzione, ma sarà un processo di generazioni. E gli espatriati, la diaspora, può avere un ruolo in questo cambiamento, gli chiediamo? Certamente, non dimentichiamoci che Khomeini stesso era un esiliato e quindi anche noi possiamo contribuire in questo cambiamento della società, ha concluso. Nada Choc, TGR, Friuli Venezia Giulia. A Udine in programma oggi l'Assemblea della Società Filologica Friulana, appuntamento a Palazzo Mantica alle 10. Si svolgeranno anche le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali. Il giallista tedesco, matriestino d'adozione, Veit Einichen, presenterà questa mattina il suo nuovo romanzo A maglie strette al Teatro Miela, in dialogo con i giornalisti Martina Vocci e Enzo D'Antona alle 11. Sono passati 3 anni dal 16 marzo 2022, quando le forze russe hanno bombardato e distrutto il teatro di Mariupol, nel sud dell'Ucraina, che nei giorni precedenti era stato trasformato in un rifugio per migliaia di civili assediati dai bombardamenti. Il reading, scritto da Michele Guerra, intitolato La breve utopia Mariupol Dream Theater, parte da questo anniversario per raccontare una straordinaria storia di resistenza, dando voce ai sopravvissuti con testimonianze esclusive raccolte dall'autore. Lo spettacolo è in programma alle 18 al Circolo Arci Nuovi Orizzonti di Udine, nel quartiere dei Rizzi. A poche settimane dall'uscita in sale, già uno dei successi della stagione cinematografica, Follemente di Paolo Genovese, storia di un primo appuntamento, una commedia romantica che ci fa entrare nel cervello dei due protagonisti per scoprire i meccanismi misteriosi che ci fanno agire. Il regista incontrerà oggi il pubblico a Cinema Zero di Pordenone alle 17.30 e al Visionario di Udine alle 19. Alle 8.41 siamo allo sport, partiamo dal calcio. Cade in casa l'Udinese, battuta dal Verona 1-0 grazie a una punizione di Duda nel secondo tempo. L'Udinese si ferma contro l'Hellas Verona, sconfitta dopo 6 risultati utili di fila per i friulani che pagano l'assenza di Toven. C'è Sanchez, ma l'attaccante cileno non riesce mai ad incidere e viene sostituito all'intervallo, prima della mezz'ora della ripresa, la rete decisiva su punizione di Andrei Duda. Primo gol in stagione per lo slovacco e vittoria fondamentale in chiave salvezza per l'Hellas Verona. Udinese nel corso della gara davvero poco pericoloso in attacco, lo conferma Costa Rugnaic, il tecnico dei bianconeri. Especially in the first half I missed a little more. Nel primo tempo ha messo da abbastanza quello che abbiamo fatto, ci è mancato un po' di energia, un po' di brillantezza, dobbiamo essere più concreti. Nel secondo tempo la partita è stata più o meno simile, però è chiaro che senza quel grande gol di Duda su punizione questa era una partita da 0-0. Si è sentita l'assenza di Toven anche nelle transizioni e dall'altra parte c'è stata una risposta al fatto che magari Sanchez con questo modulo ha delle evidenti difficoltà. I don't want to go now in detail. Per quanto riguarda Sanchez non vuole scendere molto nei dettagli, per quanto riguarda Toven è chiaro, un giocatore come Toven manca sempre, parliamo di un grande leader, il nostro capitano, un grande giocatore che ovviamente ci manca tecnicamente ma in generale anche nella partita, però non possiamo attribuire le cause di una partita esclusivamente all'assenza o meno di un giocatore. Adesso avremo tempo in questa sosta per analizzare nei dettagli questo match. Udine, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. In Serie C la Triestina sarà in campo oggi pomeriggio alle 17.30 allo Stadio Rocco contro la Pro Patria, match chiave in ottica salvezza per gli alabardati contro un avversario che è staccato in classifica di soli 4 punti. Il basket in Serie A, battosta storica per Trieste che perde a Trapani per 131-88. I siciliani tirano con medie di realizzazione impressionanti superiori all'80% e la squadra di Christian, espulsa per proteste, ne esce ridimensionata. La partita dei record subiti però una Trieste molle, si arrende a una Trapani che voleva vendicare la sconfitta in Coppa Italia, record di punti fatti negli ultimi 30 anni, non a prestazioni di tutti i tempi con 131, record di punti segnati a metà partita 70, al massimo di sempre per percentuale di tiro e percentuale da 3 punti. La squadra di Christian, espulso per protesta nel terzo quarto, ci mette del suo non trovando soluzione all'onnipotenza di quella di Repescia, collezionando 25 palle perse in attacco, anche queste, manco a dirlo, record. I siciliani mandano in doppia cifra 9 giocatori a testimonianza della profondità della rosa, facendo vedere un basket che al di là della prestazione irripetibile al tiro è di un'intensità superiore a quello di una Trieste apparsa stanca e vuotata fin dall'inizio. Difficile salvare qualcosa per i biancorossi che pur in attacco al di là delle perse producono una prestazione dignitosa da 88 punti, mentre non possono essere alibi le assenze di Ross, Valentine e anche di Reyes. Servirà a dimenticare subito questa controprestazione anche perché la prossima in casa c'è la Virtus Bologna. In A2 oggi Cividale ha invece un appuntamento con la storia. Alle 20.45 diretta Rai Sport, finale di Coppa Italia di categoria contro Cantù, almeno 600 i tifosi lucani che invaderanno il Paladozza di Bologna per sostenere Rota e compagni di fronte una squadra di taglia fisica enorme ma che ha sempre sofferto storicamente la banda di Pinastrini in campionato 1-1 con le Aquile che però avevano buttato nel finale una vittoria in trasferta subendo una triple allo scadere con la partita quasi in controllo. Bologna, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia. Ricordiamo che la partita di Cividale si potrà vedere questa sera alle 20.45 in diretta televisiva su Rai Sport. Per la Serie A2 femminile, sempre di basket, Futurosa Trieste sconfitta in casa da Umbertide, che in classifica avvicina le giuliane settime. Il risultato è stato di 60-62. Oggi tocca la Delsa Rudine, che alle 18 giocherà a Vicenza. Pallanuoto, doppia delusione per Trieste, che perde di misura i match che potevano valere la stagione. Nella Coppa Italia maschile a Napoli, Trieste sconfitta dal Pro Recco 5-4 in una semifinale condotta a lungo dagli alabardati, sorpasso ligure solo nell'ultimo quarto nel quale l'arbitro non vede una rete di Trieste. Oggi finale di consolazione contro Brescia. Sul versante femminile, alla Piscina Bianchi, le orchette devono arrendersi alle olandesi del De Zaan nella finale di andata dell'Eurocup. 10-9 il risultato per le ospiti, il gol che decide l'incontro arriva a fil di sirena. Ora tutto è affidato alla gara di ritorno ad Amsterdam il 5 aprile. 8.46 la nostra rassegna stampa. Il Messaggero Veneto in entrambe le edizioni apre citando un virgolettato del presidente Mattarella pronunciato ieri a Gorizia. Da confine a opportunità, queste le parole del capo dello Stato, da qui un esempio per un futuro di pace nel continente. Sull'edizione di Udine la fotonotizia è dedicata al calcio, Udinese spenta e al Verona basta un tiro in porta, bianconeri sconfitti in casa 1-0. E poi palloncini e tanti amici per l'addio a Marco, il funerale a Tolmezzo del giovane morto dopo un incidente sugli sci. E ancora, da Udine a Tricesimo sul treno sotterraneo, il viaggio dimostrativo a cui hanno partecipato ieri diversi esponenti politici locali. Sull'edizione di Pordenone del Messaggero Veneto, in prima pagina c'è spazio per un richiamo legato alle proiezioni sul turismo nell'anno della capitale della cultura, previsto un 50% in più di presenze. Poi, sanità gestita assieme ai privati, ecco il piano per il pronto soccorso. Infine, accordi con le imprese e intelligenza artificiale, più fondi per la sicurezza, al convegno organizzato dall'Università di Udine a Tavagnacco. Nelle pagine locali, la presentazione del candidato di centrodestra le comunali, salpa la lista di Basso, faremo la differenza. La cerimonia di Gorizia con Mattarella e Pachor apre anche le due edizioni del Piccolo, grande foto per i due presidenti con il premio Patroni ricevuto al Verdi. Sull'edizione di Trieste la cronaca cittadina si occupa dello stallo nelle trattative con gli austriaci per la compravendita del Silos. Dopo il contratto preliminare, attesa la firma definitiva il 30 aprile, il passaggio da Coppa Alleanza 3.0 a Schwarzen vale 20 milioni. Spazio poi a un'operazione antidroga della Mobile, 6 pusher incastrati per cocaina spacciata al Giulia e alle Torri. Da Sant'Orligo il Piccolo riprende l'annuncio arrivato qualche giorno fa della prossima riapertura del rifugio Premuda, porta della Val Rosandra, chiuso da un anno e mezzo. Addirittura i lavori di ristrutturazione, la società alpina delle Giulie, sezione locale del CAI, ha affidato la gestione all'esperto Franco Bulli, inaugurazione prevista entro Pasqua. Nella cronaca dell'Isontino il Piccolo ricostruisce un episodio di qualche notte fa al CPR di Gradisca, materassi e altre suppellettili a fuoco dopo i ritardi nei soccorsi a due ospiti che avrebbero ingerito varechina. Il dorso di Udine del Gazzettino titola sui sanitari, allarme rosso, via in 2600, quasi 1000 medici lasceranno il servizio da qui al 2030, molti di più gli infermieri. Sempre in tema sanità, un richiamo sulla proposta a Lignano di privatizzare l'assistenza alla guardia medica per i turisti. Nella fotonotizia l'Udinese, molle e spenta, si inchina al Verona. E sempre per lo sport, nel basket, stasera Cividale Cantucchi vince, alza la Coppa Italia. Altro titolo è per la linea ferroviaria di Udine, bufera sui tempi per eliminare i passaggi a livello. Ieri la protesta è salita a bordo del treno che viaggia in cintura. L'alternativa c'è. Un richiamo per la capitale europea della cultura. Pordenone, dopo le polemiche, invita in città gli avversari. Un ultimo, infine, per il Festival Dedica. Lo scrittore Kader Abdollah, solo quando scrivo mi sento davvero a casa. Prima di chiudere, uno sguardo ai programmi regionali e alla radio. Su queste frequenze alle 9.15 trasmetteremo Da Nulla a Infinito, le strade di Leopardi e Chopin, scritto e interpretato da Elsa Fonda. Un omaggio all'attrice e per molti anni annunciata l'attrice Rai scomparsa qualche giorno fa. Si tratta di una registrazione del 9 novembre 2023 a cura della Società dei Concerti. In televisione dalle 9.15 su Rai 3 andranno in onda Alpe Adria Magazine di marzo, Fertilia, Città dell'Accoglienza di Alessandra Solarino e Gillo Dorfles, un ritratto di Giampaolo Penco. È tutto per questa edizione, redatta e condotta da Daniele Lettige e Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Paolo Cassano, ha collaborato in redazione Laura Sarasini. Vi lasciamo alla rubrica Vita nei Campi, ci risentiamo alle 12.15, grazie ancora per l'attenzione e buona domenica. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.